Siamo al telefono con Federico Meccozzi, violinista, compositore e direttore d'orchestra. Allora, In World 2022 è il tuo secondo album solista, ma partiamo da come stai? Buongiorno a tutti, tutto bene, molto, molto bene, molto felice anche insomma di portare la mia musica dal vivo. Ecco, tu hai un breve tour di In World, sono tre date, noi parliamo soprattutto di quella del 7 maggio al Teatro Bibiena di Sant'Agata Bolognese, che è qui nei Paraggi il 7 maggio, poi il 9 sarai a Brescia, il 12 a Milano. Tu sei violinista, ma com'è strutturato questo concerto? Chi ci sarà sul palco insieme a te? Allora, il vero sarà è un concerto molto ricco, nel senso che sono accompagnato da tre musicisti che ritengo eccezionali per me, che poi sono quelli che lavorano con me da tanti anni, per cui ci saranno chitarre, elettronica, pianoforte, tastiere, fisarmoniche, percussioni, violoncello, perché poi sono tutti polistrumentisti, quindi ci sarà molta ricchezza ed è un po' in qualche modo la riproduzione di quello che è per me anche il disco, no? che presentiamo, che è un disco appunto dalle timbriche molto variegate, nel senso che io appunto sono violinista e sicuramente il violino è al centro della mia musica, però è contornato sempre da sonorità e da colori anche molto vari e diversi tra loro. Traggo un po' ispirazione da tutta quella che è un po' la mia esperienza in tutti questi anni, quindi da tutte le collaborazioni, le esplorazioni proprio musicali diverse da cui ho sempre attinto. Io ti faccio un'altra domanda che riguarda proprio lo strumento che utilizzi, il violino, che normalmente è associato alla musica classica o proprio, se vogliamo un po' allargare gli orizzonti, al limite al folk irlandese. Tu invece hai dato nuove sonorità a questo strumento. Perché hai pensato di fare questa cosa e in che modo hai lavorato? Beh, allora, più che pensato, mi viene da dire che è sempre stata un po' una mia esigenza istintiva, nel senso che ovviamente la base per chi è violinista è quella classica. Però io sin da quando ero piccolo ho sempre ascoltato generi insomma, anche distanti tra loro, ho sempre creduto nella musica a 360 gradi, no? Quindi da piccolo già ascoltavo i cantautori italiani, mi sono appassionato al pop, al rock, e poi ho scoperto la musica appunto tradizionale del mondo, quella che viene definita musica etnica, ho approfondito e suonato la musica folk, celtica, e tutto questo in qualche modo è diventato parte di me, no? Per cui col violino mi è sempre piaciuto esplorare questi nuovi mondi, scoprendo che in realtà è uno strumento talmente malleabile che si può adattare veramente a tantissimi universi che non sono quelli insomma della musica classica, che ripeto, poi soprattutto diciamo il periodo barocco, Vivaldi in particolare, per me rimane un riferimento ovviamente, però è bello poi insomma spaziare, toccare davvero infiniti mondi. Ecco, tu hai pubblicato due album da solista, tutti di musica strumentale, dato che senza un testo magari è un po' più complicato far arrivare dei messaggi, volevo chiederti quali sono i messaggi o i racconti che porti con i tuoi brani nella tua musica? Allora, di base devo dire che il racconto è sempre molto personale ed è quello che poi ti porta in qualche modo al processo creativo, no? Per cui nel caso del primo album, uscito nel 2019, si intitolava Awakening, quindi risveglio, era un po' un'intenzione di risvegliare tutto quello che, come dicevo prima, avevo accumulato in qualche modo dentro a livello espressivo, no? Pubblicando finalmente un mio lavoro dopo tanti anni di collaborazioni, di esperienze, di viaggi, di tour, era un po' un far esplodere diciamo quello che avevo assimilato, no? Però a livello poi di contenuti, a me viene sempre da dire che soprattutto la musica strumentale ha un potere molto bello, che è quello di emozionare l'ascoltatore in maniera del tutto soggettiva e personale, quindi nel momento in cui poi questa musica viene recepita da chi ascolta, la cosa molto bella è che ognuno la può percepire in modo emotivamente diverso, no? Per cui anche se nel momento in cui l'ho scritta io ero in un certo tipo di stato d'animo, in realtà è molto camaleontica, no? La musica, soprattutto senza parole, per cui ognuno può fare il viaggio che vuole. Questa secondo me è una cosa molto bella, è una ricchezza in più. Io ti volevo chiedere anche un'altra cosa a proposito di ricchezza. Molto spesso nelle collaborazioni la musica si arricchisce, no? Prende più strati ma anche più punti di vista. Nonostante tu sia molto giovane, sia per quanto riguarda insomma l'età anagrafica ma anche il tuo percorso musicale, hai collaborazioni di altissimo livello con degli artisti molto importanti. Fai parte dell'orchestra di Ludovico Einaudi, hai collaborato con Brando Ardi, Morgan, Blondie Red Dead, i Ministri. Insomma, come sono nate queste collaborazioni? Sicuramente tra tutte quella con Ludovico Einaudi è quella in qualche modo più significativa per me, perché continua da oltre 15 anni. Ero veramente molto, molto giovane quando ho cominciato a davvero a girare il mondo quasi ininterrottamente con lui, e tuttora è insomma una delle esperienze più belle, più formative per me, perché c'è anche insomma un rapporto di amicizia molto familiare con lui, e devo dire che è un'esperienza da cui si continua ad apprendere tante cose, no? Sia a livello proprio artistico ma anche a livello umano. In quel caso la collaborazione è nata perché lui mi ha sentito suonare in un piccolo festival vicino alle mie parti, sono riminese, e da lì insomma ci siamo conosciuti, è nata questa stima. Io già lo ascoltavo tanto, ero, si può dire, un suo fan, quindi nel momento in cui poi pochi mesi dopo mi chiese di far parte della sua band, del tour che stava preparando, per me ovviamente si trattava di qualcosa di incredibile, però ho detto sì perché sembrava insomma l'occasione della vita, nel vero senso della parola, e difatti poi è diventata una collaborazione duratura e bellissima. Altre collaborazioni sono state ovviamente più sporadiche, più brevi, legate a un progetto, a un concerto. Penso ad esempio a Morgan, con cui ho fatto qualche anno fa un concerto dedicato a Battiato. E sono tutte cose che veramente poi ti rimangono nel cuore, perché insomma quando hai a che fare con artisti di quel livello, che nella maggior parte dei casi sono poi un po' i tuoi riferimenti, no? Anche quelli con cui sei cresciuto, insomma è un bagaglio che non svanirà mai dalla tua esperienza, ed è molto significativo. Ottimo, quindi insomma un sacco di roba anche in una storia comunque per un musicista così giovane. Allora ricordiamo l'appuntamento intanto: Teatro dei Bibbiena, 7 maggio, Sant'Agata Bolognese, con Federico Meccozzi. Per far venire un po' anche l'acquolina magari a chi ci ascolta da casa, ti chiedo, hai un brano del tuo ultimo album che vorresti farci ascoltare per salutarci e darci appuntamento a questo concerto? Beh, mi verrebbe in mente il brano che poi dà il titolo al disco, che si intitola Inwards, ed è forse uno dei brani più significativi. Inwards significa verso l'interno, perché a differenza del primo album, il secondo lo trovo più introspettivo e più interiore, nonostante insomma presenti anche dei momenti e dei movimenti molto ritmici, affannati, però è più un'esplorazione diciamo del dentro di noi, quindi vi proporrei Inwards. Perfetto, grazie mille Federico. Grazie, è stato un piacere. Insomma, in bocca al lupo per tutto quanto e appuntamento al 7 maggio a Sant'Agata Bolognese. Grazie mille. Grazie, ciao.